Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi a Essere Benessere si parla d'amore, degli errori in amore delle donne, 800 24 0024. Ma prima di presentarvi gli ospiti voglio salutare il professor Giuseppe Remuzzi, condirettore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo e direttore del Dipartimento di Medicina Specialistica e dei Trapianti degli Ospedali Riuniti di Bergamo. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Oggi con lei vorrei aprire parlando di donazione, che è un grande gesto d'amore e di generosità. Anche no, nel pensavo che parlavate d'amore anche con me, invece con me solo di trapianto. Se vuole fermarsi, professore. No, non ce la faccio, no. Sono tanti malati che devo vedere. Parliamo invece con lei di donazione. Adesso anche nel nostro paese, come già succede negli Stati Uniti, sarà possibile donare un organo senza conoscere il ricevente. Si parla infatti di donazione samaritana. Professor Remuzzi. Sì, in realtà noi abbiamo già una legge sulla donazione da vivente, che è una legge vecchia del 67, una legge che porta la firma di Saragat e Andreotti ed è semplicissima. Dice che noi non possiamo fare niente che è contro la nostra integrità fisica, ma per il trapianto c'è una deroga. E la deroga è che possiamo donare il rene a consanguinei, genitori, figli e fratelli, o anche al coniuge, di solito per la verità è la moglie che lo dona al marito, quasi sempre, o a un parente alla lontana o a uno sconosciuto se non ci sono consanguini. Quindi noi lo possiamo già fare. Adesso il comitato di bioetica ha detto sì, però bisogna stare attenti che non ci siano, che davvero sia uno sconosciuto, che non ci siano contatti tra donatore e ricevente. Questa è una cosa molto giusta e poi bisogna essere sicuri che chi lo fa sia una persona che davvero lo vuole fare, che non ha condizionamenti eccetera. Quindi il contributo del comitato di bioetica che ha fatto poi scattare in un certo senso questa attenzione al problema è interessante ma relativo rispetto al vero problema. Il punto è che il poter fare anche da noi delle donazioni altruistiche aumenterà di pochissimo il numero di trapianti, ma fa riflettere, perché fa riflettere sul fatto che uno può dire ma se lo fa qualcuno a favore di uno sconosciuto che nemmeno conosce, perché non farlo io a favore di un mio familiare? Certo, quindi darà in qualche modo il buon esempio. Certo. Professore, quali sono i vantaggi di un rene da donatore vivente rispetto a uno prelevato da cadavere? Intanto si può fare il trapianto nel momento più opportuno. In generale le condizioni delle rene sono migliori perché non c'è stato tutto il problema della rianimazione, non c'è stata la morte cerebrale, non ci sono state tutte delle cose che in qualche modo rendono l'organo meno perfetto quando lo si trapianta, e questo si traduce nel fatto che un rene da donatore vivente dura di più, in media 21 anni rispetto a 13 di un rene da donatore cadavere. Il vero problema è che noi non abbiamo abbastanza reni da donatore cadavere, non li avremmo nemmeno se fossimo in grado di ottenere organi da tutti quelli che muoiono di morte cerebrale. Se noi avessimo un'organizzazione tale per farlo e non ci fossero rifiuti alla donazione, che è una cosa molto brutta e molto triste, lo stesso questi organi non basterebbero per tutte le persone che aspettano. Calcoliamo che noi oggi abbiamo 8.000 persone in attesa di trapianto e quindi solo uno su cinque di quelli che davvero hanno bisogno di un organo per vivere oggi lo possono avere. Professor Remuzzi, sicuramente dei dati che ci fanno riflettere, dedicheremo a questo tema sicuramente una puntata, e quindi professor Remuzzi noi ci sentiamo presto, ci sentiamo come d'abitudine, intanto la lascia ai suoi malati, ai suoi pazienti. Grazie professor Remuzzi per essere stato grazie, con noi. Grazie a voi, buona giornata. Quante volte noi donne ci troviamo dentro a storie d'amore che falliscono e ci fanno soffrire sempre per gli stessi motivi? Lo dico anche a voi uomini all'ascolto, quante volte vi imbattete in donne che vorreste amare ma che rimbalzano, diciamo così, la vostra voglia di stare in coppia, di costruire una relazione perché le vedete perse in qualche territorio della relazione o dell'emozione che distrugge ogni buona intenzione. Bene, proprio di questo che vogliamo parlare oggi insieme a voi. Cominciate a scrivere, a telefonare per raccontare quali sono gli errori, gli sbagli più frequenti che noi donne facciamo in amore, o se siete uomini che avete visto fare alle donne che vi siete trovati a fianco per tempi più o meno lunghi della vostra vita. 800 24 00 24, ci sarà da discutere, ne sono certa, ma oggi. Non mi spaventa nulla perché con me ho il professor Giorgio Nardone, che saluto, benvenuta a Essere Benessere. Buongiorno a tutti voi. Psicoterapeuta, psicologo e direttore del Centro di Terapia Strategica di Arezzo, che a questo tema Payman ha dedicato proprio un volume uscito da Ponte alle Grazie, intitolato appunto Gli errori delle donne in amore. E tra l'altro professor Nardone è autore di molti libri che sono stati pubblicati in diverse lingue straniere. Grazie. Allora, a noi donne piace parlare tra di noi delle nostre storie d'amore, e di fronte agli errori le amiche possono essere una consolazione. C'è un molto scambio, lui doveva fare, tu dovevi dire, ma andrà meglio, che anche loro in qualche modo in tutto questo contribuisce, no, ad alleviare un po' il disagio, a riflettere, a meno che anche le nostre amiche non si trovino parecchio affaticate alla ricerca del principe azzurro. Auguri a te, Miranda. Festa per i 30 anni o giù di lì tra amiche non sposate. Avremmo preferito una bella telefonata di gruppo celebrativa. Puoi cominciare. Bene. Sentite, in questa città se sei una donna di successo hai due scelte. O sbatti la testa al muro cercando di avere un rapporto serio, o dici fai sesso esattamente come un uomo, senza provare sentimenti. Samantha Jones rispecchiava New York alla perfezione. Manager nelle pubbliche relazioni, non sposata. Andava a letto con tipi mozzafiato sulla Ventina. Vi ricordate quel tipo con cui uscivo? Oddio, come si chiamava? Drew. Per lui non provavo niente, era una cosa alla... Ehi bimbo, ora devo andare, ci si vede. Credetemi, me ne dimenticavo completamente. Con gli uomini di questa città non sai come comportarti. Non vogliono avere un rapporto serio, ma quando gli fai capire che cerchi solo sesso non gli va giù. Ah, signore, siamo davvero così ciniche? Dov'è finito il romanticismo? Già, è una cosa vecchia. Forse questo è il momento di chiarire chi sono io. Io sono una donna che è in cerca dell'amore. Del vero amore. Ridicolo, sconveniente, che ti consuma. Del genere, non posso vivere senza di te, amore. E io non credo che questo amore sia qui, in questa costosa suite di questo splendido albergo a Parigi. Non è colpa tua, è colpa mia. Non dovevo venire. Professor Nardone, le avrà riconosciute, erano le protagoniste di Sex and the City, le quattro donne newyorkesi, che sono proprio un esempio, no, alquanto concreto, di donne che nella ricerca dell'amore per sempre, quello proprio con la maiuscola, si imbattono in uomini con cui si trovano a recitare a soggetto, diciamo così. E lei, professor Nardone, nel suo libro ne racconta tante di donne di questo tipo, un po' intrappolate in ruoli, in copioni. Sì, per l'esattezza i copioni selezionati sono 17. Sì. E devo dire che ascoltando queste battute se ne evidenziava già qualcheduno. Sono copioni che vengono sia dalla tradizione un pochettino culturale, fiabesca, come la fata, la strega, la bella addormentata nel bosco, colei che cerca il principe azzurro, e copioni molto più moderni che come dire, derivano anche dall'evoluzione del ruolo della donna nella famiglia e nella società, come la donna manager, la donna nave scuola, la donna dilagante, la donna amazzone, e che comunque sono dei modelli che si ripetono. Per questo ho usato la metafora del teatro del copione, ovvero il personaggio che viene recitato e che intrappola il grande attore perché gli viene così bene che tutti vogliono che faccia quello, ma anche lui ama fare quello. E quindi la donna che, in virtù non di qualche cosa di traumatico nella sua vita o di qualcosa che è andato storto, ma al contrario, in virtù del suo successo nell'essere in un certo modo, poi costruisce un copione rigido nel quale rischia di intrappolarsi se questo si irrigidisce ancora di più. Quindi, professore, non sempre noi ci accorgiamo di recitare un copione, allora mi affido proprio a lei, alla sua forza comunicativa, proprio per chiedere, per farle fare una domanda diretta alle nostre ascoltatrici. Io voglio naturalmente coinvolgere anche i nostri ascoltatori, magari due domande chiave che aiutano chi ci sta ascoltando a raccontarsi. Professor Nardone? Sì. Sì. Rilevare, sì, quali sono quelle cose che nelle nostre storie amorose si sono ripetute, ovvero com'è che per esempio io sono bella, brava, ma dopo un po' mi lasciano tutti, questa è la dilagante, no? Sì. E quindi qual è quella cosa che io ripeto, quel comportamento, quell'atteggiamento che io ripeto, qual è quel atteggiamento, comportamento che gli uomini ripetono nei miei confronti. Quindi la ricerca di ridondanze, di quei modelli che si ripetono. Questo è il copione. Allora a quel punto si può cominciare a pensare come modificarlo, come renderlo più flessibile. Quindi 800 24 0024 se volete raccontarvi in diretta, il professor Nardone vi aiuterà a individuare il punto di fragilità e magari così ci aiuterà in qualche modo a limare, a cambiare qualche cosa di noi. Ma è ora il tempo di salutare una delle nostre prime ospiti che ci accompagneranno nel corso della puntata. Saluto Irene Ferri, attrice che abbiamo seguito in Tutti pazzi per amore, io non mi sono persa una puntata, dove interpretava Rosa, che in quanto ad errori ha un curriculum non trascurabile, ma che alla fine, amiche mie, si riscatta alla grande. Irene, ciao e benvenuta. No, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti, a tutti gli ascoltatori. Grazie Irene per essere con noi. Senti, io inizierei proprio insieme a te a conoscere alcuni profili tra quelli che il professor Nardone ha descritto. Ascoltali anche tu un po' con la stessa attenzione che chiedo alle mie amiche da casa. E poi vediamo insieme a quale ci sentiamo più vicine, a quale ci allontaniamo di più. Professor Nardone, io inizierei da tre copioni che rimandano, come lei anticipato, alle favole: la fata, la strega e la bella addormentata. Bene, allora cominciamo con la fata, che è questo personaggio stupendo, meraviglioso, che tutti amano perché è bella, brava, dolce, disponibile con tutti, mossa sempre dall'idea del lieto fine, e è talmente buona e capace di incantesimi che ne rimane più delle volte intrappolata, poiché non riesce mai a mettersi in una posizione positiva anche quando sarebbe necessario. Quindi è quella che dice sempre sì, che è disponibile con tutti e che il più delle volte rimane intrappolata da uomini piuttosto sfacciati, poco propensi a scrupoli, proprio perché insistono e riescono a superare la barriera delle sue resistenze. E lei, quando cade in trappola, invece che allontanarsene, riconoscendo l'uomo di quel tipo come pericoloso, il più delle volte cerca di cambiarlo, perché è la fata, quindi lo renderà buono, cercherà di farlo diventare quello che non è, e così da fata si trasforma in altro copione, la baciatrice di rospi, colei che bacia il rospo sperando che diventi principe. Principe azzurro invece, tante volte rimane un rospone. Principe. Vabbè, ma quello allora è un problema che abbiamo tutte, però, non solo le fate. Quello di baciarli e pensare che si trasformino in meravigliosi uomini. A volte succede però, no? Sì, qualcosa sì. Dai, qualcosa, ci sono dei baci magici. Certo, succede se la fata, che può diventare baciatrice di rospi, non ha solo questi due copioni rigidi, ma se riesce nei confronti del partner in dei momenti anche essere capace di distacchi, quindi se fa un pochettino la mazzone che bastona il maschietto, o se fa un po' altro copione moderno, la manager, quella che pianifica, organizza, ma che lo sa tenere al suo posto. Quindi insomma bisogna variare copione. Ma certo. Irene, la nostra Rosa che abbiamo amato in Tutti pazzi per amore, secondo te abbozza un profilo? Che cosa, come la descrivi? Psicopatica. Una psicopatica? No, in realtà Rosa è una donna, diciamo, creativa, è una donna con senso dell'umorismo, che è una delle salvezze per quanto riguarda l'essere umano, non solo le donne, e sicuramente anche una donna fragile, per cui invece di fermarsi un attimo e dire va bene, allora questa è la situazione, c'ho tre gemelli, mio marito se n'è andato con un'altra, fermiamoci un attimo, no? Non so, ragioniamo. Invece lei non ha voluto assolutamente ragionare, e forse anche questo è un modo per curarsi, no? Per superare, e si è buttata in questo mondo maschile variegato, multiforme. Professor Nardone, è un atteggiamento frequente questo? Sì, questo chiodo scaccia chiodo, insomma. Sì, è quello che è rappresentato nel copione della dilagante, che è un copione moderno, nel senso che va a individuare quel tipo di donna che va avanti a testa bassa come un toro, perché è convinta di essere fondamentalmente nel giusto, quindi evita di fermarsi a riflettere, a fare autocritica, pensa chi non mi vuole non mi merita, e quindi va avanti, più delle volte per fare questo deve adattarsi alle circostanze, adattarsi agli uomini diversi, e finisce molto spesso per farsi molto del male. Sì, sì, questo è proprio il profilo un po' di Rosa, ecco. Certo. Però alla fine Rosa trova l'amore, un amore giovane, Irene? Molto giovane, sì, è assolutamente inatteso, no? Quindi sì, diciamo che abbiamo scatenato... Voglio dire, abbiamo un po' sfatato, ma non solo Rosa, ma succede ormai. Succede a donne. Non si capisce perché debba succedere solo agli uomini, ogni tanto succede anche alle donne. Insomma, una storia che riscatta molte donne. Sì, però come abbiamo detto prima, si può essere d'accordo o no, sì. Questo è un altro discorso. Sentiamo il nostro uomo, professor Nardone. Se mi è concesso, certo. Al di là del vostro giusto... appunto romantico, sempre bello e piacevole da sentire, purtroppo anche la donna di una certa età che trova l'amore giovane rappresenta un copione di quelli moderni, anzi uno che una volta non esisteva proprio, quello che io ho definito in modo un pochettino ironico, anzi forse un po' sarcastico, il copione della nave scuola. Che brutto, non mi piace. Dobbiamo coniare un altro termine, perché almeno trovarne un altro anche al maschile. Irene, se tu dovessi dare un consiglio a un'amica che sia fatta strega, baciatrice di rospi, dilagante, Penelope, per dire tirati su, che cosa le inviteresti a fare? A riflettere, a uscire? No, l'unica cosa da fare è volersi bene, questa è l'unica cosa, ed è modo per trovare l'uomo giusto. Se una donna, ora parlo un po' più seriamente, non vorrei sembrare, però l'unico modo per trovare l'uomo giusto e vivere una vita sana, sì, sentimentalmente e in tutti i sensi, è amarsi prima di tutti noi stesse. Quindi questa, se una donna riesce a volersi bene, sicuramente poi può trovare un uomo giusto, e questo vale per tutti gli esseri umani. Sì, vale per gli uomini, vale per le donne. Esatto. Prima di salutare Irene, una battuta del professor Nardone, andiamo poi ai mercati e al meteo. Questo che si chiama sano egoismo vale per ogni essere umano. Se non riesco a star bene con me, non riesco a star bene con nessuno. Però si scontra un po' con la natura e l'apprendimento culturale della donna, che invece è rivolto soprattutto verso il partner. Quindi è vero che le donne devono imparare a essere autonome, indipendenti, però è un'operazione più difficile di quello che si pensa. Ma noi ce la faremo. Intanto, se volete consigli e indicazioni, se volete raccontarvi, riflettere insieme a noi a voce alta sui vostri errori e trovare una sorta di soluzione, 824 0024. Io abbraccio Irene Ferri, grazie Irene che sei stata con noi, buona giornata. Grazie, buona giornata a voi. E siamo tornati insieme, oggi parliamo degli errori che noi donne facciamo in amore, e in linea con noi abbiamo il professor Giorgio Nardone, che proprio a questo tema ha dedicato un libro uscito con Ponte alle Grazie, intitolato appunto Gli errori delle donne in amore. Abbiamo Leonardo che ci chiama da Perugia e magari ci aiuta a capire di più. Leonardo, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a te, agli ospiti e anche a tutti gli ascoltatori. A capire di più, io intanto volevo dirvi che non vi parlo della mia esperienza diretta, io sono felicemente sposato da tempo, però per quello che vedo e vivo quotidianamente nella mia attività lavorativa, io sono in giro dalla mattina alla sera, noto che c'è stata, come tutti sappiamo, nella società una grandissima evoluzione della donna, sì, giusta e corretta, per carità, non sono un maschilista, non mi fraintendete. Però volevo dire che in questo tipo di evoluzione, mentre l'uomo ai miei tempi era quasi il cacciatore, posso usare questo termine tra virgolette? Sì, possiamo usarlo. Poi, esatto. Poi chiediamo al professor Nardone se pensa di scrivere anche un libro sugli errori che fanno i maschi in amore con altrettanti 17 copioni. Ma Leonardo, allora veniamo agli errori, a quello che a lei sembra le donne di oggi sbaglino. Sì, io ritengo che oggi di fatto non ha più l'uomo questo ruolo predominante, bensì è del gentil sesso. Ah. E in questo, per quello che vedo io, si passa, cioè quando magari una donna è single, una ragazza è single e quindi è alla ricerca della sua anima gemella o della persona con cui vuol condividere, ha un tipo di atteggiamento che è quello della diciamo quasi disponibilità totale a trovare questa persona, quindi si impegna, si affanna, fino a quando non ha raggiunto lo scopo e quindi ha trovato l'uomo della sua vita, non lo so, un uomo con cui convivere comunque la sua esistenza, almeno in quel momento. Lì si cambia totalmente, Nicoletta, si cambia diventa possessiva in termini forse eccedenti. Sì. E cambia completamente, dimenticando completamente quello che era prima, ma nel frattempo anche altre che non hanno ancora trovato continuano la loro impresa. E certo, a mettersi in caccia. Professor Nardone, lei cosa ne pensa? Leonardo ha fatto un quadro abbastanza preciso, anche lui ha individuato dei copioni, anche sì, se sì, poi... direi che allora, quello che lui descrive è uno dei 17 copioni definito la baraccatrice. Ovvero... Insomma, non ci manca nulla, i copioni li abbiamo fatti. È uno studio reiterato, ok? E in questo caso la donna è una donna che cerca assolutamente la sistemazione affettiva, è una donna ansiosa, una donna che vuole raggiungere quella pace. Il problema è che questa smania di trovarla la fa diventare proprio quella che bracca l'uomo finché lo trova, ma quando lo trova poi il suo essere giunta a questo scopo non è così gratificante come pensava, anche perché più delle volte questo tipo di donna trova dall'altra parte l'uomo piuttosto smidollato. Ecco, diciamo... perché i copioni, noi, alcune donne attraggono sempre gli stessi tipi di uomini, ma allora, individuato quello che è il punto di fragilità di questa braccatrice, un consiglio strategico per cambiare quale potrebbe essere? Intanto io saluto Francesca da Roma, che è in linea con noi. Benvenuta Francesca, sentiamo, magari lei non è una braccatrice, ma è sempre utile, magari uno lo diventa. Professor Nardone. La cosa importante che vale per tutti i copioni è che il copione non è patologico, è disfunzionale, ma diventa quindi disfunzionale, pericoloso solo quando si irrigidisce, ovvero rimane l'unico. Allora ogni donna, una volta individuato il proprio copione prevalente, dovrebbe riuscire a impegnarsi a introdurre altri tipi di copione che gli fanno da contraltare, così come l'attore intrappolato nel ruolo di un personaggio che tutti gli richiedono deve, per uscire da quella trappola, cominciare a recitare altri ruoli più affini che però vanno a mitigare la rigidità del primo copione. Questa è l'indicazione per le donne. Questa mi piace, per cui proviamo a riconoscere. Francesca, allora, buongiorno, lei che cosa ci racconta? Vuole raccontarsi o raccontarci qualcosa che ha visto? Ma io magari per raccontarmi, per cercare anche di capire qualcosa di me stessa. E certo, il professor Nardone, intanto... approfittiamone. Esatto, intanto rispondo al professor Nardone che forse la risposta al maschile della nove scuola potrebbe essere il toy boy. Bene, ecco, è arrivato. Altre risposte, altre proposte si aspettano al 349-238-6666. Allora, Francesca. Allora, per quanto mi riguarda, io non mi saprei identificare forse in un copione, ma magari sicuramente ne ho uno prevalente anche io. Però mi ritengo una persona strana perché ho fatto una mia posizione, una mia serenità nel lavoro, penso nella vita personale e mi ritengo una persona carina, diciamo, d'aspetto fisico, intelligente e sicuramente intraprendente. Però... forse potrei essere una braccatrice, però poi dopo non si sa perché, 39 anni, io non ho ancora una situazione sentimentale stabile e mi sono sinceramente anche stufata di sentir dire che gli uomini hanno paura. Ah no, è quella della paura, basta, non la vogliamo più. No. Professor Nardone, allora qua c'è un caso, Francesca, un caso abbastanza diffuso. Io ho anche molte amiche che le vedo belle, intelligenti, affermate nel lavoro, interessanti, e mi raccontano un po' la stessa cosa di Francesca. E noi donne siamo stufe di dire no, gli uomini, poi le donne belle, intelligenti, hanno paura, la competizione, eccetera. Quindi un'indicazione chiara per Francesca e per le mie amiche. Era quello un po' che indicavo prima, il copione della dilagante o della manager della coppia, quindi donne belle, brave, vincenti. Io ho un sacco di allieve, così, se devo dirvi, ok? Che spaventano l'uomo. Ma no. Ma vede, il problema qual è? Che la società negli ultimi 20 anni, la società civile occidentale, si è evoluta con il fatto che le donne hanno conquistato nuovi ruoli e hanno avuto una bella evoluzione, mentre il maschio si è smidollato sempre di più perché è iperprotetto sia dalla famiglia che dalla società. Pertanto si viene a creare questa sorta di complementarietà patogena tra un maschio debole e fragile e una donna forte, vincente. Cosa succede? Che all'inizio i due sono perfettamente in sintonia, perché il maschio debole vuole una donna forte, la donna forte vuole un maschio debole all'inizio. Dopo un po' però la donna vorrebbe un maschio alla sua altezza, il maschio non regge, si spaventa, scappa. E scappa. Ok, allora la donna in questo caso... Ma mi dica, come fa questa donna allora a conoscere un uomo? Dove va a cercarlo? Che caratteristiche deve avere un uomo che poi non la faccia finire il rapporto dopo i primi mesi? Semplicemente la donna dilagante o manager deve rallentare il suo impeto costruttivo nella vita affettiva ed emotiva, nelle relazioni amorose e sentimentali, deve introdurre un pochettino di freni a questa sua carica, quindi recitare, che so, il copione un pochettino della bella addormentata che aspetta che sia il maschio a muoversi, invece di essere lei a pianificare tutto, a fare tutto, a rendere la vita facile al partner. Quindi praticamente l'indicazione che possiamo avere anche leggendo il suo libro: troviamo il nostro copione e proviamo a esercitarci a interpretare il copione assolutamente opposto, così... Non l'opposto. Ci vuole la capacità di recitare almeno un paio di copioni che vanno a controbilanciare, ma non l'opposto, perché l'opposto è il rovescio della stessa medaglia. Se io chiedo alla fata di diventare strega, o non ci riesce, o se ci riesce è un disastro ancora peggiore. Bene, già allora questo non opposto, un po' complementare, quindi giocare su più ruoli. Noi adesso dobbiamo andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Giovanni da Napoli, non mi sono dimenticata di lei, la sento subito dopo, e sapremo anche come riuscire a sopravvivere, sopportare le delusioni d'amore, perché se è vero che c'è la chimica dell'innamoramento, c'è anche la chimica del mal d'amore. E siamo tornati insieme, istruzioni per sopravvivere al mal d'amore. Avevamo Giovanni da Napoli, ma è caduta la linea, non so se riusciremo a recuperarlo. Intanto abbiamo il professor Perna che è in linea con noi. Professore, buongiorno a tutti. Direttore associato del Master Internazionale sulle Neuroscienze Emotive dell'Università di Maastricht. Professore, in un minuto, il professor Nardone ci ha insegnato a individuare i profili, i nostri copioni fissi, però quando l'amore finisce, come diceva Cocciante, è un dramma. Anche i neurotrasmettitori ci si mettono, citiamo quelli che si muovono, salgono, scendono, e ci dia in un minuto anche i rimedi, perché se no non ce la si fa. Allora, ultra rapidamente, quando ci si innamora, la dopamina tende ad essere un trasmettitore centrale, quello che regola la ricompensa, il desiderio, la dipendenza e l'euforia, no? Mentre la serotonina tende ad essere bassina, questo spiegherebbe anche la tendenza un po' rimuginativa, quasi ossessiva, a fissarsi poi sulla persona amata. Poi ci sono altri ormoni importanti, che sono la vasopressina e l'ossitocina, che sono ormoni legati all'attaccamento sostanzialmente. Sì. Detto ciò, sì. Quando faccio? Ovviamente... Dimmi cosa faccio? Cosa farò? Due cose importanti. Uno è lasciarsi guidare dal proprio corpo per alimentarsi. Questo perché spesso la tendenza a mangiare più carboidrati, che spaventa molte persone, oddio, mangio, mi sfascio, in realtà è un'azione compensatoria della nostra mente che richiede più carboidrati, quindi più produzione di triptofano, quindi più serotonina. La serotonina è l'ormone del buon umore, e quindi quando cambia la situazione col nostro partner in qualche maniera, che scompare, noi abbiamo bisogno di ricostruire un minimo di armonia e di sopportare la fase negativa. Quindi lasciatevi andare a quello che il corpo richiede, almeno inizialmente. Altra cosa per compensare, tra l'altro, il rischio di aumentare di peso è quello di fare attività fisica, quindi evitare di rimanere sul pezzo con la mente, ma agire molto col corpo. Questo ha due valenze: una ovvia, della distrazione, ma la seconda più importante è di rimettere in moto tutta una serie di circuiti chimici che tendono a favorire quello che è un umore migliore e spronare l'individuo a reagire alla situazione in cui ci si trova. Grazie professor Perna per essere stato con noi. Professor Nardone, grazie anche a lei. Il suo libro, io lo consiglio, 17 profili in cui scoprirsi, identificarsi per trovare delle strategie compensatorie. Professor Nardone, grazie. Grazie a voi tutti. Voi restate, perché parliamo di prevenzione al femminile, c'è un bel progetto che voglio farvi conoscere. La buona novella. La buona notizia è che la prevenzione dei tumori femminili raggiunge anche le zone meno fortunate del mondo. Come sapete, esistono aree geografiche ancora escluse dalla diagnosi precoce del tumore dell'utero e del seno, dove si registra una mortalità molto alta per queste malattie, ma si possono salvare tante vite con l'informazione giusta alle donne e un aiuto concreto per gli esami di diagnosi precoce. L'Istituto Europeo di Oncologia, che è impegnato nella diagnosi precoce dei tumori femminili in Italia, ne abbiamo parlato più volte del progetto Mortalità Zero, bene, ha deciso di rispondere alla richiesta di aiuto di alcuni paesi in grave difficoltà sanitarie proprio con una delegazione diretta dal professor Veronesi, ha partecipato al varo del progetto di lotta contro i tumori e in particolare del progetto di lotta contro i tumori femminili in Madagascar. In linea con noi abbiamo Carlo Pampari, che è direttore dello sviluppo reti nazionali e internazionali di IEO e responsabile del progetto Madagascar. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Insomma, una buona notizia, un bel progetto, ce lo vuole raccontare? Ve lo racconto brevemente. Noi siamo stati interpellati, come sempre, come spesso accade, da una nostra ex paziente che vive in Madagascar, ha una splendida famiglia e ha deciso di aiutare il suo paese e le donne del suo paese attraverso uno stimolo al nuovo governo del Madagascar per quanto riguarda la lotta ai tumori, in particolare ai tumori femminili. Il governo si è mosso coinvolgendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, noi abbiamo partecipato anche alla stesura del piano e il piano è stato presentato sabato scorso in una riunione veramente importante alla quale erano presenti, oltre agli oncologi e agli universitari malgasci, anche una serie di esponenti delle istituzioni internazionali. Quindi dietro questo bel progetto una donna, una mente femminile, no, mi piace sottolinearlo. È molto importante perché le donne hanno una sensibilità diversa, sono molto generose e devo dire che da questo punto di vista lo stimolo che è stato fatto ha trovato una risposta straordinaria, oddio, anche da parte nostra. Certo. Perché... No, ma certo, bisogna unire le forze. Ma esatto. Dottore, io vorrei, anche da quanto ci ha detto, leggere un po' tra le righe di questo progetto che segna un passo avanti importante non solo in campo preventivo, ma anche, come lei ha anticipato, sociale. È partito dall'idea di una donna e qualcosa sta cambiando, c'è una sensibilità nuova proprio nel voler mettere al centro la donna in paesi in cui non è sempre stato così. Assolutamente vero, devo dire che a noi ha fatto una eccellente impressione ciò che ha detto il Ministro della Salute del Madagascar quando ha detto: per noi abbiamo capito che tutelare la salute della donna è in realtà tutelare lo sviluppo della società, perché la famiglia ruota intorno alla salute della donna, la donna fa crescere la famiglia, lascia libero l'uomo di lavorare, di partecipare alla vita economica della società o partecipa essa stessa ed è un punto di riferimento fondamentale per un equilibrato sviluppo della famiglia e in definitiva della stessa società. Questa è un'attenzione nuova, un'attenzione che noi in Italia abbiamo da tanto tempo, ma che in alcuni paesi, in particolare i paesi africani, ci sembrava che mancasse. Dottore, molti si chiederanno però... perché investire fondi, ricerche in paesi così lontani quando ancora nel nostro paese la prevenzione mostra ancora aspetti di fragilità? Io ne dico uno, le liste d'attesa molto lunghe. Innanzitutto il progetto del quale stiamo parlando è sostanzialmente finanziato, per cui non ci metteremo al di là delle nostre competenze sostanzialmente delle risorse. Per di più direi che è anche un modello che può essere esportato, è un modello che messo a punto può aiutare anche il nostro paese e le regioni dove esistono differenze proprio di attenzione nei confronti della diagnosi precoce, della sollecitazione alle donne a curarsi, è uno stimolo importante anche per noi. L'equilibrio non dipende soltanto dai singoli, dipende sicuramente da una gestione che oggi è frammentata, perché la gestione della sanità è a livello regionale, non tutte le regioni hanno lo stesso passo nell'affrontare l'organizzazione degli screening e l'organizzazione della diagnostica. Devo dire che il modello di diagnosi precoce che noi stiamo mettendo anche a punto per questa iniziativa, credo che sia francamente replicabile in molte regioni italiane. Dottor Pampari, io la saluto e la ringrazio per questa buona novella che ci ha portato oggi e che abbiamo condiviso insieme. Come posso salutarla? Buon progetto, allora. Grazie, e non mancheranno sicuramente ulteriori buone novelle per le sue ascoltatrici. Grazie, buona giornata. Grazie anche a lei. E per oggi è tutto. Un saluto e buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.